Per l'intervista di oggi, come abbiamo anticipato prima, siamo con voi per raccontarvi Lo Stato Brado, che è una delle band che possiamo vedere di più nelle recensioni nei social ultimamente, perché a seguito dell'ultimo album hanno avuto delle ottime recensioni. Intanto è qui con noi Lorenzo, benvenuto Lorenzo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come sta andando, come stai? Sta andando bene, dai, siamo contenti di essere così presenti. Ci recensiscano, la gente ci ascolta, i nostri amici sono molto entusiasti del nostro lavoro, quindi i vostri amici contenti. Che sono la parte più bella, insomma, dai, che siamo... certo. Allora, il disco è uscito a dicembre, il vostro disco, che si chiama Ahimè. Che mi ricorda ahimè. Un po' quei rumori che fanno gli anziani, un po' oplala, ecco, proprio quello. Ed è il vostro secondo album che segue Canzoni contro la ragione, che era uscito invece nel 2024. Quindi ti chiederei, tra questi due album, insomma, non è passato tantissimo tempo tra questi due album, che cosa è cambiato in questo annetto abbondante, insomma, e anche ahimè, come mai si chiama così? Allora, in questo annetto è cambiato. Allora, il primo disco è stato una sudata che abbiamo fatto insieme, io, l'altro Lorenzo e Alessio, cioè ci trovavamo in saletta, in studio, in saletta, fa un po' tristezza dirlo, in studio di registrazione, a suonare, a improvvisare, e da queste improvvisazioni è nata con grande facilità il nostro primo disco, Canzoni contro la ragione. Si sono allineati i pianeti in quel momento, non si sa cosa sia bene successo, sta di fatto che non abbiamo fatto nessun tipo di fatica. I testi sono nati facilmente, la musica anche. Con Ahimè è successo un po' l'opposto, possiamo dire. È stato invece come scendere in miniera, non è stato più andare a correre con i propri amici, ma è stato proprio i lavori forzati. Eravamo bloccati, non avevamo idee, il tempo era poco perché avevamo una deadline. Lavorando con un'etichetta c'era stata data una scadenza, e per cui, insomma, tra l'ansia di non farcela, la stanchezza, perché tutti poi facciamo anche altre cose nella vita oltre questa, però questo anno di miniera ha portato dei bei frutti nonostante tutto, insomma è stato un bel modo di mettersi alla prova. Il titolo Ahimè è, come dici anche tu, io l'ho sempre un po' interpretato così, come il verso degli anziani. Mia nonna dice ancora "o ben be", che sono quelle parole che non vogliono dire niente e sembrano quasi un po' delle invocazioni, dei suoni onomatopeici un po' ancestrali, non so come dire. Però trasmettono, hanno molto significato. Sì, esatto, e sono, nonostante siano suono prima di essere significato, perché è una parola che appunto non vuol dire pressoché nulla, ma in realtà trasmette moltissimo. Con Ahimè cosa avevate scelto di trasmettere? Ahimè, vabbè, stiamo vivendo un periodo molto interessante, come direbbe qualcuno. Qualcuno di ottimista, esatto. Stiamo vivendo un periodo veramente psichedelico, e per cui era un po' questo. Io personalmente con questa parola ho anche un legame familiare, perché mio padre negli anni 80 girò un film che si chiamava Ahimè, a sua volta, che ha delle similitudini col lavoro che abbiamo fatto noi. È un lavoro molto stratificato, un po' ingenuo, un po' psichedelico, e quindi per me in particolare è stato anche un gancio con quella cosa lì, ecco, del mio passato. Ecco, parlando di cinema, appunto, voi tre musicisti dello Stato Brado venite da esperienze musicali, non proprio di musica, di sound design e composizione, anche per il cinema. Ecco, sì. Da queste esperienze, quando e come è nata la scintilla per creare Lo Stato Brado, e cosa vi portate delle esperienze, delle altre esperienze, diciamo? Allora, sì, siamo tutti e tre, nasciamo musicisti in realtà, e poi ci siamo lanciati in modi più o meno disparati nella musica elettronica, nella musica per film, nel sound design, nelle macchine, nella computer music, eccetera eccetera. Ci piace molto quel mondo, è un mondo che frequentiamo e con cui lavoriamo molto volentieri. Da questo mondo ci portiamo il fatto che il suono ha una sua drammaturgia, come diciamo sempre, cioè un suono vuol dire qualcosa, e cerchiamo di applicare questa cosa alle canzoni. Cioè che una chitarra non sia solo una chitarra, che una tastiera non sia solo una tastiera, che una batteria non sia solo una batteria, ma che siano suoni che significano qualcosa, ecco, questo sì, questo un po' ci portiamo dietro. L'idea iniziale dello Stato Brado era: portiamo la canzone nel mondo del cinema, cioè rendiamola un film, ecco, questa era un po' la cosa, un po' presuntuosa probabilmente, però noi tra di noi ce la dicevamo, ed era un po' questo. A proposito di suoni, di chitarre che non sono chitarre, voi utilizzate all'interno delle canzoni, nell'album, dei suoni anche che non sono propriamente musicali, dei clacson, dei suoni della natura. Intanto ti chiedo, come li avete, come mai questa scelta e come farete a riportarli dal vivo? Allora, questa scelta è una conseguenza un po' del fatto che siamo, abbiamo un problema psichiatrico probabilmente, e registriamo in continuo. Io in particolare, ma anche gli altri, Alessio e Lorenzo, abbiamo molto interesse sul suono in generale, per cui tanti di questi suoni sono stati registrati anni fa o mesi fa con il telefono, banalmente. E poi sperimentando abbiamo provato a inserirli dentro campionatori, a farne strumento musicale di questi suoni, ed è stato un po' il momento di svolta, diciamo, di questo anno di lavoro. È stato un momento che un po' ci ha acceso la narrazione di questo disco. Abbiamo iniziato a vedere un senso al lavoro che stiamo facendo, perché non l'ho detto, ma noi per questo disco abbiamo registrato 40 ore di musica, che sono state quasi completamente cestinate, cioè ne è rimasta quasi 40 minuti del disco. Ok. Quindi sì, questo lavoro di campionamento è quello che ci ha un po' indicato la via, e dal vivo li portiamo dal vivo tramite la tecnologia che amiamo moltissimo. Non abbiamo computer dal vivo, anche quello è stato un altro gran lavoro che è stato fatto. Abbiamo solo macchine. Siamo dawless, come dicono quelli bravi, ovvero non abbiamo i computer, insomma, abbiamo campionatori reali e io suono la chitarra con mille pedali, mille oggetti. Come quelli bravi. Ti chiederei, sì, ti chiederei se ti va di scegliere una canzone da farci ascoltare intanto dal disco, e poi dopo torniamo a continuare a parlare della vostra carriera e della band. Yes, io andrei con Chiome. L'ascoltiamo e torniamo da te. Allora, questa era Chiome dello Stato Brado, tratta da, ahimè, il secondo album. E lo Stato Brado viene definito un collettivo di musica elettronica sperimentale post-agricola. In che senso? questo è un po'... è una definizione che ci siamo dati all'inizio, perché, vabbè, è una storia lunga questa definizione. Io ho un ricordo di un nostro caro amico, Marco Cenacchi, e mia sorella Benedetta Valdesalici. Li ricordo, non so bene collocarli nel tempo, ma in un capannone in provincia di Ferrara dicevamo che bello sarebbe girare un videoclip qua e fare post-punk agricolo. E lì mi si era un po' acceso tutto un viaggio, e sono tornato dai miei compagni della band proponendo questa definizione, musica elettroacustica post-agricola, perché stavamo giocando. Io avevo appena sentito Fatur parlare pochi giorni prima, dicendo: quando nessuno ti caga ti devi autocelebrare da solo, e quella cosa stupenda mi ha acceso moltissimo. Ho detto: dai, diamogli un titolo altisonante, quasi senza senso. E poi però il senso in realtà c'è, insomma, nonostante noi il senso c'è a questa cosa. È un po' la musica che viene, secondo me, secondo i nostri viaggi, che poi sono secondo i nostri viaggi, è una musica che viene un po' dopo, non so, dopo il Novecento. Sembra che sia già successo tutto, poi adesso non è vero, sembra che la storia si sia rimessa in moto, però è un po' quello. Siamo il mondo è post agricolo, siamo noi dopo la civiltà contadina, non so come dire. A proposito di civiltà contadina e di natura, nella cover c'è anche un grandissimo richiamo alla natura, all'Appennino, ma anche al teatro. Ci racconti un po' di questa copertina, come mai è stata scelta? Allora, la copertina è una grande foto di gruppo che noi sognavamo di fare, perché volevamo appunto rappresentare lo Stato Brado. Durante il tour di Canzoni contro la Ragione abbiamo incontrato tanti personaggi, tante persone più o meno sghembe o appassionate a noi, insomma, tanti bei personaggi, e abbiamo iniziato a pensare che fossero loro lo Stato Brado, cioè che lo Stato Brado non è la natura, ma sono gli umani che l'abitano. E avevo iniziato a pensare che ci sarebbe piaciuto fare una foto di gruppo. E poi io casualmente ho trovato delle foto d'epoca di compagnie di teatro popolare a casa di mio padre, che posavano così come abbiamo provato a posare noi, con i travestimenti, ci è sembrato molto bello e abbiamo, insomma, volevamo farlo anche noi. E quindi abbiamo contattato la compagnia del Maggio Montecusna, che ci ha prestato i costumi, e abbiamo contattato il Museo dell'Immaginario folclorico di Piazza Al Serchio, che a loro volta ci hanno prestato i costumi, sono stati tutti molto gentili, molto carini, molto entusiasti, e quindi un giorno poi siamo andati a fare una tortellata in Valdasta con la Proloco, abbiamo posato per la foto, è stata una bellissima giornata, credo che la copertina sia molto bella, ecco, e ringrazio le fotografe che ci hanno, come dire, che hanno progettato e diretto i lavori, Flora Del Debbio, Sara Fabiani e Margherita Caprilli. Beh, sicuramente il risultato è molto post-agricolo, si può dire. Questo sì. Va bene, allora intanto ti ringraziamo per averci raccontato queste cose. Ricordiamo però che sarete qui a Bologna il 24 al Locomotive Club. Ti chiedo se hai un messaggio o un qualcosa che vorresti dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fujiko, che possono venire anche a vedere il live. Allora, il concerto appunto il 24 è ingresso libero e niente, vi aspettiamo, sarà una bellissima serata, noi siamo molto carichi, speriamo ci sia tanta gente e vi aspettiamo. Perfetto, allora grazie, ti chiedo se hai una canzone per salutarci e chiudere l'intervista. Potremmo salutarci con Tane. Perfetto, allora ascoltiamo Tane e ci diamo appuntamento il 24 al Locomotive Club. Grazie mille. Grazie, ciao a tutti. Ciao, grazie.